Capitolo XXII. Carattere e imprese di Artemide. Artemide, sorella di Apollo, se ne va armata d'arco e di frecce e, come Apollo, ha il potere sia di provocare pestilenze o morti improvvise, sia di porvi rimedio. Essa è la protettrice dei bambini e di tutti gli animali da latte, ma ama anche la caccia, specialmente la caccia al cervo. Un giorno, mentre era ancora una bimba di 3 anni, suo padre Zeus la prese sulle ginocchia e le chiese quali doni avrebbe gradito. E subito Artemide rispose: «Concedimi, ti prego, l'eterna verginità, tanti nomi quanti ne ha mio fratello Apollo, un arco e delle frecce come i suoi, il compito di portare la luce, una tunica da caccia color zafferano con un bordo rosso che mi giunga sino alle ginocchia, 60 giovani ninfe oceanine, tutte della stessa età, come mie damigelle di onore, 20 ninfe dei fiumi che farai giungere da Amniso in Creta, perché si curino dei miei calzari e nutrano i miei cani quando io non sono impegnata nella caccia, tutte le montagne del mondo e infine tutte le città che vorrai scegliere per me. Ma una sola mi basta, perché intendo vivere quasi sempre sulle montagne. Purtroppo le donne in travaglio mi invocheranno spesso, poiché mia madre Latona mi ha partorita senza dolore, e le Moire dunque hanno già fatto di me la patrona delle nascite». Artemide allungò la mano per accarezzare la barba di Zeus, che sorrise con orgoglio e disse: «Con una figliola come te non avrò mai da temere della gelosia di Era. Tu avrai tutto questo e altro ancora, non una, ma 30 città e una parte di molte altre, sia sul continente sia nell'arcipelago, e io ti nomino custode delle strade e dei porti». Artemide lo ringraziò, saltò giù dalle sue ginocchia e si recò subito sul monte Leuco in Creta, e poi nel fiume Oceano, dove scelse molte ninfe di 9 anni come sue ancelle. Le loro madri furono felici di affidargliele. Dietro invito di Efesto, la dea si recò in seguito a visitare i ciclopi nell'isola di Lipari e li trovò intenti a martellare un truogolo per i cavalli di Posidone. Bronte, cui era stato detto di fare tutto ciò che Artemide volesse, la prese sulle sue ginocchia, ma non apprezzando le sue carezze, la giovane dea gli strappò una manciata di peli dal petto. Quei peli non ricrebbero più, e Bronte ebbe sempre una macchia bianca sul petto, sì che chiunque avrebbe potuto crederlo malato di rogna. Le ninfe erano atterrite dall'orrendo aspetto dei ciclopi e dal fragore della fucina. La cosa è comprensibile, poiché quando una bimba è disobbediente, subito la mamma minaccia di chiamare Bronte, Arge o Sterope. Ma Artemide sfacciatamente disse ai ciclopi di trascurare per qualche tempo il truogolo di Posidone e di farle invece un arco d'argento e un bel fascio di frecce. In cambio essa avrebbe loro offerto in pasto la prima preda abbattuta. Con codeste armi Artemide si recò in Arcadia, dove Pan era intento a smembrare una lince per darle in pasto alle sue cagne e ai loro cuccioli. Pan diede ad Artemide 3 cani segugi dalle orecchie mozze, 2 bicolori e 1 macchiettato, tutti assieme capaci di trascinare un leone vivo nel canile, e 7 agili segugi spartani. Avendo catturato vive 2 coppie di cerve cornute, Artemide le aggiogò a un cocchio d'oro con redini d'oro e le guidò a settentrione verso Lemo, monte della Tracia. Giunta sull'Olimpo Misio, la dea tagliò una torcia da un pino e l'accese nelle braci di un albero colpito dal fulmine. Per 4 volte provò il suo arco d'argento, le prime 2 mirando agli alberi, la terza a una bestia selvatica, la quarta a una città abitata da uomini ingiusti. Poi ritornò in Grecia, dove le ninfe Amnisie staccarono le cerve dal cocchio, le strigliarono, le nutrirono con quello stesso trifoglio rapido a crescere, che è il cibo favorito dei destrieri di Zeus, e le abbeverarono in truogoli d'oro. Un giorno il dio fiume Alfeo, figlio di Teti, osò innamorarsi di Artemide e inseguirla attraverso la Grecia, ma essa giunse all'Etrini in Elide, o, secondo altri, all'isola di Ortigia presso Siracusa, dove impiastricciò di bianco fango il proprio volto e quello delle ninfe, tanto che non fosse più possibile distinguere l'una dalle altre. Alfeo fu costretto a ritirarsi, inseguito dall'eco di risate di scherno. Artemide vuole che le sue compagne rispettino la castità come essa stessa la rispetta. Quando Zeus sedusse una di loro, Callisto, figlia di Licaone, Artemide notò che era incinta. Trasformatala in orsa, le scatenò contro i cani e l'infelice sarebbe senz'altro perita se Zeus non l'avesse trasportata in cielo, ponendone l'immagine tra le stelle. Ma altri dicono che Zeus stesso trasformò Callisto in orsa e che era ingelosita e indusse Artemide a darle la caccia senza saperlo. Il figlio di Callisto, Arcade, fu salvato e divenne l'antenato degli Arcadi. In un'altra occasione, Ateone, figlio di Aristeo, stava appoggiato a una roccia nei pressi di Orcomeno, quando vide per caso Artemide che si bagnava in un fiume poco lontano e rimase a guardare. Poiché in seguito si vantò con gli amici che la dea gli si era mostrata nuda senza alcun pudore, Artemide lo tramutò in cervo e lo fece divorare dalla sua muta di 50 cani. La vergine dall'arco d'argento che i greci introdussero nella famiglia olimpica era il membro più giovane della triade di Artemide, poiché Artemide era un appellativo della triplice dea Luna. Essa aveva perciò il diritto di nutrire le sue cerve col trifoglio, simbolo della Trinità. Il suo arco d'argento è il simbolo della Luna Nuova. Tuttavia, l'Artemide olimpica fu più che una vergine. In altri centri del suo culto, a Efeso, ad esempio, essa veniva onorata sotto il suo secondo aspetto, quello di ninfa, un'afrodite orgiastica accompagnata da un paredro e che aveva la palma da dattero, la cerva e l'ape come suoi emblemi principali. Al suo terzo aspetto, quello di vegliarda, va attribuita la prerogativa di assistere ai parti e di scagliare frecce. E l'età delle sue sacerdotesse, 9 anni, ricorda che il numero dell'estinguersi della luna è 3 volte 3. Artemide si ricollega alla Cretese, signora della selvaggina, evidentemente la suprema dea ninfa delle società totemistiche arcaiche. E il bagno rituale cui assiste a Teone, come pure le cerve cornute del suo cocchio e le quaglie di ortigia, si addicono più a una ninfa che a una vergine. Ateone era, a quanto pare, il re sacro di un culto preellenico del cervo, fatto a pezzi al termine del suo regno di 15 mesi, corrispondente alla metà del grande anno. Il suo co-re, o successore, regnava per l'altra metà. Le ninfe si bagnavano per purificarsi dopo e non prima dell'eccidio. Nei miti irlandesi e celtici troviamo molti riti analoghi a questo, e fino al primo secolo d.C. un uomo ricoperto con pelle di cervo veniva inseguito e ucciso sul monte Liceo in Arcadia in una data ricorrenza. I segugi furono probabilmente di pelo bianco con orecchie rosse, come i segugi infernali della mitologia celtica. Una quinta cerva cornuta sfuggì alla cattura. Il mito di Alfeo che insegue Artemide pare modellato su un mito analogo, quello di Alfeo che insegue invano Aretusa, finché costei si trasforma in fonte e Alfeo in fiume. E può darsi sia stato suggerito per spiegare il gesso o creta bianca con cui a Letrini e a Ortigia le sacerdotesse di Artemide e Alfea si impiastricciavano la faccia in onore della loro dea bianca. Alf denota sia il candore sia i prodotti cerealicoli. Alfos è la lebbra, Alfe è il guadagno, Alfiton è l'orzo perlato. Alfito era la dea del grano bianco come seminatrice. La statua più famosa di Artemide ad Atene era chiamata dalla bianca fonte. Il significato della parola Artemide è dubbio, forse dalle forti membra, da Artemis, oppure colei che recide, dato che gli spartani la chiamavano Artamis, da Artao, oppure la sublime convocatrice, da Airo e Temis, oppure la Temis può significare acqua, dato che la luna era considerata la fonte di tutte le acque. Anche Ortigia, l'isola delle quaglie presso Delo, era sacra ad Artemide. Il mito di Callisto è stato ispirato dalle 2 bimbe vestite da orse che partecipavano alla festa attica in onore di Artemide e Brauronia e ricorda anche il tradizionale legame che univa Artemide all'orsa maggiore. Ma si può presumere che esistesse una versione più arcaica del mito nella quale Zeus riusciva a sedurre Artemide, benché essa si fosse dapprima trasformata in orsa, cospargendosi poi il volto di gesso per sfuggirgli. Artemide in origine regolava il corso delle stelle, ma cedette poi questa prerogativa a Zeus. Perché Artemide strappi i peli dal petto di Bronte non si sa. Può darsi che Callimaco alluda scherzosamente a qualche affresco ben noto ai suoi contemporanei e che si era un po' scrostato in corrispondenza del petto del ciclope. Come signora della Selvaggina o patrona dei clan totemici, Artemide riceveva annualmente in omaggio olocausti di animali, uccelli e piante totemici, e questi sacrifici continuarono sino ai tempi classici a Patre, una città della Caledonia. Colà la dea era chiamata Artemide l'Afria. A Messene vittime analoghe venivano arse in suo onore dai cureti in qualità di rappresentanti dei clan totemici. E un'altra cerimonia del genere si svolgeva a Ierapoli, dove le vittime venivano appese agli alberi di una foresta artificiale all'interno del tempio della dea. L'albero d'olivo era sacro ad Atena, la palma da dattero ad Iside e a Lat. Su un sigillo del periodo medio-minoico, che è ora in mio possesso, si vede la dea ritta accanto a una palma, i fianchi cinti da una sottana di foglie di palma e una piccola palma in mano. Essa osserva il vitello dell'anno nuovo che nasce da un grappolo di datteri. Dall'altro lato dell'albero si vede un toro morente, evidentemente il toro reale dell'anno vecchio.